Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Non so se dire che è troppo presto o forse siamo in ritardo di qualche minuto. Maurizio, tu cosa pensi? No, siamo giusti. Buonasera da Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore che è assieme al mio fedele compagno Maurizio Cazzalara. Sono sempre qua praticamente. Sempre qui. Anche questa sera siamo in diretta qui live, ovviamente, con una cantante, ma tra poco la presentiamo, una delle voci più famose di Padova. Dicevo, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. I nostri numeri telefonici, quelli in studio 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri SMS, anche per far domande, come dico sempre agli artisti che si susseguono nei nostri live, basta fare il 346 23 20 033, verranno sempre comunque letti tutti quanti gli SMS, a meno che non siano offensivi, ovviamente, insomma, ma questo penso sia scontata la cosa, giusto Maurizio? Certo. Speriamo di no, speriamo. Che offensivi. No, ma sai, non si sa mai. Allora, vi ricordo lo streaming audio e anche lo streaming video. Lo streaming audio, andando nel nostro sito www.bluradioveneto.it, c'è un rettangolo rosa con scritto streaming, sotto c'è una freccia nera e cliccando lì si sente la radio in diretta 24 ore su 24. Mentre per quanto riguarda le telecamere, cioè o meglio vedere l'artista che canta, suona e parla, basta digitare diretta rockwave.it, se non sbaglio, e nel motore di ricerca vi è il primo link che vedete sopra, cliccando lì entrerete nella nostra pagina, oppure andando nella recensione dell'artista, alla fine della recensione che il nostro caro amato Maurizio ingloriosamente fatto io, c'è scritto streaming video, cliccando lì si accede direttamente alle nostre webcam che mostreranno questa sera, dicevo, una delle voci più belle di Padova, una carissima amica, Susi Dal Gesso. Buonasera Susi. Come stai? Molto bene, e voi? Molto bene. Direi che è caldo in questo giorno. Sì. È molto caldo, anche qua dentro, nonostante che ci sia l'aria condizionata, fa caldo anche qua dentro. Ma il caldo, perché la musica fa caldo, fa emozione, quello è anche. Sì, anche discorso. Montare tutto questo ambaradà, esattamente, fa caldo, quello fa caldo. Che i nostri ascoltatori possono vedere il vostro l'ambaradà di Susi. Sì, l'ambaradà sarebbe la tastiera, la chitarra, il mixer e tutto quello che mi consente di suonare live. Esattamente. Insomma, chi è Susi Dal Gesso? Per chi non lo sapesse, ci dai una... È una bella domanda, lo dovrei chiedere anch'io chi sono. Allora, chi sono? Beh, intanto prima di presentarmi volevo dirvi che noi abbiamo la possibilità di essere ascoltati questa sera dai miei amici in tutto il mondo. Ho amici e persone che comprano i dischi in Australia, in Inghilterra, Francia, Germania, Europa, Cina, Medio Oriente, Stati Uniti e America Meridionale e una parte dell'Africa del Nord. Però... manca un po' qualche paese, però dai, però insomma, arriverai anche ci su stiamo quelli. Attrezzando appunto, arriverai anche su quelli. Allora, siccome avevo promesso via Facebook di salutare gli amici in tutte le lingue, per chi mi conosce so che prima tu stavi parlando con un ragazzo di Parigi. Allora posso permettermi di fare un saluto a tutti in tutte le lingue? Certo, ok, come no. Allora prima lo diciamo in italiano così gli ascoltatori. Allora, io sono Susi Dal Gesso e spero questa sera che la mia musica arrivi a raggiungervi ovunque voi siate per portarvi luce, pace e amore. E se mi vorrete aprire la porta, arriverò direttamente al vostro cuore. Perché utilizzo la musica? Perché per me la musica è l'elemento di unione per la fratellanza di tutti i popoli, di tutte le razze e le religioni, perché la musica ti penetra senza vincolo di credo. A chiunque piacesse qualche mio disco questa sera, qualche mia interpretazione, le può trovare nel web o nei vari siti principali, oppure scaricarsi i brani, i testi e vedere i video al sito www.susidalgessoenterprise.com. In quale lingua lo facciamo adesso? Facciamo spagnolo? Dai, spagnolo, dai. Hola, soy Susi Dal Gesso, che puoi dall'energia della mia musica accompagnarti, proteggerti, darti luce e pace in todas partes donde tu estés. Gracias por escucharme y si tú quieres abrir tu puerta, yo llegaré directamente a tu corazón. La música es el elemento unificador por la fraternidad de los pueblos. De todas razas y religiones, porque van a penetrarse en el vínculo del credo. Tú puedes buscar las letras y los vídeos y las canciones en internet, en mi sitio, al www.suscitaljazzenterprise.com. Allora, per il nostro amico francese... Francese. Sorry, je suis Suzy del Gesso. J'espère que l'énergie de ma musique puisse t'accompagner, te protéger, te donner la lumière et la paix, n'importe où tu te trouveras. Merci de m'écouter et si tu vas m'ouvrir ta porte, je reviendrai directement en ton cœur. La musique, c'est l'élément fédérateur pour la fraternité des peuples, de toutes races et religions, car elle pénètre sans les contraintes de la croyance. Tu peux trouver les chansons, les vidéos et leurs textes sur le site à www.suzydalgesenterprise.com. Et non ultimo l'inglese, ok? Ok. Hi, I'm Suzy Dal Gesso. May the energy of my music accompany you, protect you, give you peace and light wherever you are. Thanks for your listening, and if you'll open your door, I'll arrive directly to your heart. The music is the unifying element for the brotherhood of all races and religions. As it penetrates without credit constraints, you can find songs, texts, videos, CDs, in internet at www.suzydalgesenterprise.com. Good listening. Perfetto. Sembrava un annuncio commerciale. Perfetto, perfetto. Susi, c'è già una... no, non so da dove chiama. No, io ti dico che prima ci siamo collegati in Facebook, no? Allora, essendo da un altro computer, la mia chat è sempre chiusa. Sì, sì, sì. Perché no, mi scrivono i 1004 insieme. Sì, certo. E collegandomi dal loro computer hanno cominciato... Io, no, Ago, spegni, mi veniva l'ansia, hai capito? Comunque, Susi, questa ha pubblicato una frase sotto il tuo annuncio, che in 5 minuti, sì. Poi, si chiama Olti Maverick. Ah! Che non so, è un lui. No, è una lei. No, è un lui. È un lui, vabbè. A meno che non sia andato a Casablanca ieri. Dice, we're waiting for you, come ti on. Ti stiamo aspettando, come andiamo. On. Eh sì. Eh sì, grazie. Okay. I'm on air. Honey bee, I'm on air. Tu sei mondiale, insomma. Sì, sì, sì. Ci porti pure ascoltatori di tutto il mondo. E noi siamo veramente molto, molto felici. Anche per me è un onore essere qui. Vi ringrazio per avermi invitato. Susi, prima di parlare ancora, che abbiamo chiacchierato già qualcosina, sì. Facciamo ascoltare una canzone tua? Esatto. Sì, allora io vorrei farvi ascoltare la canzone che si chiama Daisy, tratta dall'album Place No Labels on Me. Per favore non mettete mie etichette. E con questa canzone sono stata in classifica in Portogallo nella versione che adesso andiamo a sentire e invece in Argentina nella versione latina. Daisy. Ah. My name is Daisy and I'm a flower. My pistil's yellow, take my petals off. Just look around, I'm a happy flower. Just pick me baby, I'm on the grass. Love me or not, please, what's the answer? To fly over the stars, reaching the moon. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, già i complimenti da parte di Gavi. Grazie. Che ti sta ascoltando da Parigi. Da Parigi. Ti fa i complimenti per le bella voce, le belle che... Merci beaucoup, chérie. Bravissima. No, volevo un saluto in italiano, mi ha detto lui. Sì. Ah, lo sa, si chiama Gavi. Ah, ok. Vuoi mandargli un saluto? Ciao, Gavi. Ciao, Gavi. Ecco. Dicevo a Susi mentre il pezzo andava che ha avuto una grande difficoltà a fare la piccola recensione che abbiamo fatto, perché ha fatto di tutto. Ha fatto di tutto: cantante, corista, produttrice, fonico, coreografa. Cosa ti manca? Solo il cinema? O hai fatto anche qui? Ho fatto anche il cinema, però guarda, c'è qualcosa che sta andando in arse? Ecco qua. E ti dico che mi piace mettermi in discussione. Non penso di sapere tutto e penso di avere ancora moltissimo da imparare. E quindi penso che mi adopererò ancora per imparare altre cose. Bene. E mettermi alla prova con altro. Ho fatto anche da regista per i miei videoclip. Ah, vedi. Quindi montaggio, hai fatto... video. Dobbiamo sottolineare una cosa, gli ascoltatori devono saperlo. Sì. Il pezzo è totalmente, integralmente scritto, diretto, sì, prodotto da te. Prodotto e suonato. È suonato tutto da te. Sì, è sì, tutto, sì. Tutto quello che fai, sì, è tutto tuo. Di, sì, tu, proprio non c'è nessun altro aiuto esterno praticamente. O qualcosina. Allora, qui su Daisy c'è la chitarra di Beppe Bertolino, ecco, però è stata l'unica canzone con collaborazioni. Con collaborazione, ah, ecco, fuori. Perché fuori, no, è un amico, certo, è un carissimo collega, ogni tanto mi piace collaborare con le persone e poi non togliamo il fatto comunque che scrivo dischi anche insieme ad altri. Certo, certo. Però certo, le mie produzioni, quelli che escono con Susi da Jazz Enterprise, che non è un nome che ho scelto è io. È un po' lungo. Me po l'ha lungo messo la SIA. No, po perché lungo. Quando io ho fatto la domanda come editore, ho detto, senta, vorrei chiamarmi così, e gli ho dato 10 nomi, no? Sì. E tutti e 9 non gli andavano bene, perché certo, tutti e 9 erano Chiara, già... Chiara. Ciao Chiara! Ciao. Perché tutti e 9 erano già stati scelti e quindi mi hanno detto, guardi, glielo diamo a noi, le diamo quello lì. Okay. Diranno, beh, la gente dirà che sono megalomane, ma siccome il nome della società doveva appartenere allo stesso nome editoriale per obbligo sia legislativo, certo, italiano, e allora mi hanno dato questo nome. Poi parlando di questo pezzo che è schizzato nelle classifiche portoghesi, c'è un motivo, me l'hai spiegato a microfono spento? Sì, allora, questo pezzo rappresentava il sound pop del 2008. Del 2008. E quindi ai portoghesi è piaciuto molto, tanto è vero che sono stata sono andata a Madeira, intervistata da DJ John Canada di Radio Madeira, e perché ero andata in classifica. Parlavamo in interviste in inglese perché io non portoghese. Devo dire che anche i primi 3 giorni per me, cioè, se essendo stata in Brasile, il portoghese del Brasile lo capivo benissimo, certo, ma il portoghese di Lisbona e zone limitrofe è molto diverso, e all'inizio ho detto, signori, mi sento sperduta, tutte le lingue che conosco questo non riesco a capire, fin quando ho imparato a ad associare i suoni a come era scritto. Ah, ho capito. Ha detto, ah, fanno quel suono lì quando è scritto così, vabbè, allora adesso quando mi parleranno capisco, e ho cominciato dopo 3 giorni a capire cosa mi dicevano. Hai fatto qualche spettacolo in Portogallo? E ho fatto uno spettacolo con dei miei colleghi musicisti italiani, sempre per le mie canzoni scelte dalla radio, ecco. Perfetto, perfetto. E io, perdonami, Susi, so che mi frusterai. Sì, non c'ho il frustino ancora. Ma c'ho la curiosità che penso avranno un sacco di gente. Che curiosità? Penso che te l'hanno fatta tutti questa domanda, ma te quale domanda? Consentimela di farla. Dimmi, dimmi. Cosa hai provato davanti al re del pop? Davanti a Michael Jackson. Il re del pop in realtà l'ho incontrato 2 volte. La prima volta nel 92 e la seconda volta nel 96. Devi sapere che è stata una figura per me molto importante, sia anche come influenze di composizione, Perché... io ascolto la musica mondiale, perché sì, sono stata una rockettara, sono stata pop, cioè tutto tranne Lisciarola e heavy metal. Del resto le ho fatte tutte. 360 gradi di musica mi sono sperimentata. Mm. E devo dire che Michael Jackson è stato una figura molto importante per me, perché sia a livello di testi, di contenuti di testi come forma d'amore, sia il suo modo di scrivere, ha influito molto anche nel mio modo di sentire. E quindi dentro di me dicevo, ah, quando lo incontrerò lo abbraccio, gli salto addosso, faccio così, faccio colà. Mi trovavo nel 96 a studiare come coreografa a Los Angeles, Mi sono trovata, io stavo ballando allo specchio con le mie colleghe, con i vari insegnanti dell'accademia. E lui si presenta con due bodyguards e io, guardando attraverso lo specchio, rimango un attimo, impietrita. Mi si sono completamente bloccate le gambe, mi si è aperta, si può dire scardinata in italiano, la mandibola, certo. Mi si è aperta, sarà entrato un quantitativo industriale di mosche, perché io sono rimasta paralizzata, non sono stata capace di dire una parola, mi sono proprio impietrificata. Dopodiché vedevo che lui parlava con il coreografo, quello che era il nostro prof, e la cosa interessante è stato che si è avvicinato a ognuno di noi e a me ha detto, ma te lo dico con la sua vocina, cioè forse non gli somiglierà molto, però Milo told me you're great, now I'm gonna watch ya. Cioè, Milo mi ha detto che tu sei molto brava a ballare, adesso io ti guardo. E io sempre con sta bocca aperta, che, cioè, ecco, sono stata una pampe, si può dire. La spieghiamo cosa vuol dire pampe, imbranata, via. Un'imbranata, sono un'imbranata, come Tiziano Ferro, uguale, cioè, bloccata completamente. L'emozione mi fa così. Ho scoperto che oltre a Michael Jackson c'è un altro personaggio vivente, che non dico in questo momento chi è, che mi fa lo stesso effetto. Ah, ho capito. E ogni volta che lavoro con questa persona mi paralizzo. Dall'emozione, mentre, cioè, non posso non avere riesci nessuno, più a reagire, non posso avere maniera normale. Rimango così estasiata e poi, e tra l'altro è un musicista, un arrangiatore, è uno che penso che abbia vinto tante di quei dischi. Pensavo fosse l'arrangiatore di Michael. No, è uno che cioè, vabbè, non importa, non si può dire. Okay. E quindi ti dico, sono rimasta proprio così, e l'unica cosa che mi posso rimproverare è, Madonna quanto sei scema, Susie. Cioè, sei proprio tonta, dai, ti sei bloccata come una cretina lì così. E le altre tue colleghe cosa hanno fatto? E chi arrossiva, ognuno aveva la sua reazione, certo, di emotività, certo. E devo dire però questa cosa, quando lui è morto per più di un anno io non ho assolutamente creduto alla sua morte, tanto è vero che parlando con i miei colleghi coreografi a Los Angeles e le persone che avevano lavorato con lui, avevo avuto anche degli album non pubblicati di Michael attraverso il web, nei nostri sistemi interni, certo. E io avevo detto, me li tengo come cimeli e li ho io, non li ho mai dati a nessuno, quindi ogni volta che sono triste c'è qualche canzone. E la cosa che sta succedendo in una maniera stranissima a livello energetico, se io sono così, magari, sai, tutti gli artisti sono incredibili, vibrano all'eccesso, ma vibrano anche in difetto, no? Certo. Quindi la capacità che abbiamo noi di emozionarci, ma anche di emozionare gli altri, è estremamente più grande di un essere normale che non suona. Però anche vibriamo altrettanto in negativo come frequenza, cioè quindi ci demoralizziamo. Mi capita se sono per esempio giù, non so, entro in un bar, devo prendere qualcosa e mi metto lì a sedere, dico magari sono preoccupata per qualche produzione o qualche problema, c'è sempre il Michael, mi mettono su una canzone del Michael, mi torna il sole, mi torna il sorriso e la tristezza se ne va. Ecco, quindi io penso che il mio rapporto con lui, indipendentemente dal fatto se sia morto o meno, perché sai che si dice, no? Sì, ma in America, ecco, succede spesso queste cose qua, per molti anni. Sì, anche con Elvis lo fecero, poco, se sì, ricordi, esatto, no? Poi dicono anche di Jim Morrison, sacco, esatto, lì. E quindi io non lo so, però mi sento collegata a lui in maniera speciale. E ho scoperto di essere terribilmente umana e imbranata nel suo raffronto. Hai perso tutte le tue sicurezze, insomma. Sì, sì. No, ma io sono normalmente una persona molto sicura, sai, certo. Però sono comunque anche una persona emotiva e le sue fragilità, no? E quindi mi ha colpito al cuore, mio cuore è rimasto folgorato, ma pure le gambe, però. Certo, sei completamente bloccata. Insomma. Qual è la canzone che ti piace di più di Michael? Che domanda. Una. Due, no, non sono di più. Sono tantissime. Però ultimamente sto ascoltando una canzone che lui dice she's out of my life, ah, dove lui alla fine piange e io dico oh signore è stato mollato anche lui, ma anche a noi succede, hai capito? No, allora, quella canzone è stata fatta prima di Thriller, quindi sì, bellissima quella canzone. Io amo la musica di Michael Jackson già dai Jackson 5, dai primi ABC, you and me, parto subito capito, ecco. A proposito di partire, ci fai parti? Hai voglia di partire? Allora, sì, parto live, però allora giusto. Tu mi hai chiesto prima chi sono, no? Sì. Allora, devi sapere che ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni a 7 anni, poi ho fatto parte dei cori gospel, poi ne ho fatte di tutti i colori, da ballerino, studio di chitarra, flauto, pianoforte non l'ho studiato e ho imparato da non vedente. Perché mi era successo di prendere un virus della congiuntivite, mi bendarono per parecchio tempo, portando le lenti a contatto, perché non ci vedo, sono sciata, no? e non ci vedevo bene da lontano, e quindi per più di 6 mesi rimasi bendata e dissi, e adesso come faccio? Come si fa a suonare? Qua? Certo. E quindi ho cominciato a mettere le mani sul pianoforte, un po' andando a caso, tasteggiando sui tasti, no? E fin quando ho imparato a suonare. Però io sono velocissima, però se uno guarda come metto io le mani non le metto giuste, perché ho imparato da sola e non vedendo. Perfetto. Quindi è una cosa così. Però ho fatto tantissimi anni, oltre a scrivere le canzoni venivano pubblicate grazie al fatto che poi facevo piano bar, lavoravo nelle discoteche, lavoravo come vocalist, perché le autoproduzioni vengono finanziate da un altro lavoro, certo, perché nessuno nasce così. Chiaro. E allora io dicevo vado a fare piano bar, vado a suonare, eccetera, eccetera, quindi mi sono messa in discussione come musicista e a memoria so più di 20.000 brani con parole, accordi di tutte le lingue. E mi capita invece spesse volte, se qualcuno mi dice ti mi suoni qualcosa di tuo, mi viene qualcosa di qualcun altro e il mio non mi ricordo manco le parole. Ti ricordi tu praticamente. e penso che sia una forma emotiva, sì, anche questa. Certo, sono d'accordo con te. Allora, visto che le persone, molti non conoscono la discografia, no? No. E quindi non conosco neanche come interpretano delle canzoni, allora ne faccio una che è conosciuta al mondo. E così speriamo di illuminare questi cuori già da questi primi accordi adesso. Blu Radio Sera. No possessions at all. I wonder if you can. Nothing for greed or hunger. A brother would have made. imagine all the people sharing all the world. And let me say that I'm your dreamer, but I'm not the only one. And someday you will join us, and the world will live as one. Just trying to imagine living in such a world. Just trying to imagine living in peace. We all are joined in harmony, for love, for peace and unity. For love, for peace and unity. For love. Just try to imagine living in such a world. Just try to imagine living in peace. We all are joined in harmony. I want everybody in peace and love and unity. We have to work for peace, for love and unity, for a better world. Maurizio, ma la versione black, bravissima, proprio black, proprio nera, assolutamente brava, nera. Bravissima, eravamo pieni di brividi qui, era la Chiara mi guardava e faceva, però... Ha immortalato la Chiara con la macchina fotografica, l'urlo in senso positivo della Susi. Complimenti Susi, veramente. Grazie, ragazzi. Bravissima, veramente. Hai proprio ripreso il pezzo, cioè la chiave di volta di Imagine, l'hai fatta in versione black. Versione black, e poi ho aggiunto quello che io sento, perché mi sento un messaggero di pace. Come vi dicevo prima, utilizzo la musica come strumento per trasmettere amore, per arrivare al cuore delle persone. Non sempre ci riesco, però credo che essere veri, come lo sono io, senza veli, prima o poi paga. Perché il semino dell'amore arriva dentro ognuno, poi fa germogliare, non si sa che tipo di pianta, però certo. Comunque si prova. È certo, vero, certo. Dobbiamo sottolineare. No, mi capita, certo. Sai, di aiutare moltissimo con la musica le persone, anche ringrazio il mezzo Facebook, oltre il discorso dei dischi, perché ricevo più di 3600 messaggi al giorno, e anche di persone che si vogliono uccidere. E quindi attraverso la musica e l'amore, le parole, il mio aiuto, sia certo, con la musica che come essere umano che ama, si fa un buon lavoro. E questo lo può fare chiunque, sì. Basta che abbia voglia di amare. Sono d'accordo con te, però bisogna avere anche le caratteristiche per poter suonare. Sì. E che mica tutti hanno. Sì, ma uno si può mettere a cappella, certo, e lavora è vero. Poi tu hai scelto la canzone del secolo, giustamente, la canzone più bella, che dobbiamo sottolineare che questa è stata scritta da John Lennon per Yoko Ono, quindi una canzone d'amore, chiaramente certo, parole forti, da delle descrizioni forti, però è una, fondamentalmente l'aveva scritta per Yoko Ono, quindi... Guarda, quando andai a New York, a Central Park, sai che c'è quella piattaforma di mosaico con scritto Imagine? Certo. E quando ti fanno fare il giro del pullman, del tour, no? Del tour, esatto, ti portano, ecco, questo era casa di John Lennon, lui è stato ucciso qui. Io ricordo che come data era l'8 dicembre. È vero. Di moltissimi anni addietro, e quando arrivai in quella via dissi, oddio, qui tu sentii un tuffo al cuore. E decisi di andare a Central Park da sola a cercare questa immagine, e la fotografai e dissi una preghiera in quel punto lì. Perché secondo me questa persona, o comunque i Beatles in generale, o tante persone che sono nell'ambito musicale, hanno un potentissimo strumento, che è quello della attraverso la musica, perché come ti dicevo, non c'è credo, non c'è religione, non c'è politica, hai capito? Quindi ho capito. Attraverso la musica si va all'interno di qualsiasi persona. Certo, certo, si arriva e quindi si utilizza questo come mezzo e immagina anche delle parole molto belle. Sì, molto belle, molto forti, ma molto, molto belle. Molto forti, molto belli. Però se ci pensi, se non immaginassimo un mondo così, nessuno proverebbe a cambiare. Questo è vero. Quindi bisogna anche cercare di immaginare che sia così e cominciare ad operare questo cambiamento. Poi è stato bello l'inizio del tuo concerto, hai iniziato con la canzone più bella, secondo molti, la più bella mai scritta, chiaramente. Ce ne sono tante, però la canzone del secolo, poi i Beatles erano i Beatles, John Lennon era John Lennon. Imagine è un'altra cosa, è un'altra parabola, è un'altra vita dei Beatles. Praticamente sciolti i Beatles, John ha fatto la sua attività da solista e questo è il vertice, secondo me, della sua attività da solista. Ha scritto tanti dischi, chi meno belli, chi più belli, bisogna vedere, però era sempre John Lennon. Sai, le più belle canzoni sono quelle che arrivano attraverso il cuore, senza ragionarci cerebralmente. Certo, sono e con dei messaggi così, e quindi credo che questa sia stata dettata anche lassù in qualche modo, perché doveva essere un modo per aiutare a sciogliere un po' i cuori di tutti, di tutte le nazioni. Certo, chiaramente. Hai fame? No, io no. Sai perché? Dimmi. C'è un ristorante a Tencarola che ci sta ascoltando. Ah, bene. Dai! Piacere. Ma dai, sono i miei amici che fanno il pesce, amori! Al ristorante da Ugo, giusto? Sì, tanti baci ragazzi, quanto mi mancate tanto. Una signora che non mi ha detto il nome ha detto: Susy, sei una grande, ti stiamo ascoltando. Amore, ti amo tanto, grazie Renata. Poi se ci avanza qualcosa noi passiamo. Sì, no, guarda, cioè, la signora ha 3 medaglie d'oro della cucina del pesce italiana, quindi vale la pena. Non è che se ne intende assolutamente. Beh, dopo questo, Renata, sai cosa facciamo? Facciamo che imbarchiamo il pesce e lo mandiamo dappertutto. Si chiama Renata? Sì, signora Renata. Ah, signora Renata. Allora, io ne approfitto per ricordare comunque i numeri telefonici. E allora, quello in studio è il 049-875-6423. Quello invece per quanto riguarda i vostri sms da fare domande, saluti, eccetera, alla nostra cara amata Susy, dal gesso, è il 346-23-20-033. La voce quella che state ascoltando in questo momento è quella di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara vi sta regalando queste 2 ore quasi di Susy dal gesso, con la sua voce, la sua musica e la sua simpatia, ovviamente, insomma. Susy, vuoi riposarti un momentino? Vuoi facciamo ascoltare una canzone? Sì, facciamo ascoltare una mia canzone. E tra l'altro tu mi hai chiesto: ti prego, portami dei lenti. E io ti ho detto: tesoro, ti farò andare in brodo di giuggiole. Allora, si dicono queste cose. Ma perché no? Perché no, guarda, dai, anche l'altra sera tu hai messo in Facebook un lento di un artista di colore che era qualcosa di straordinario. Ora non ricordo il nome. Però, cioè, adesso siamo abituati a sentire solo gli sbatocchiamenti, ok? Allora, lasciamo il posto per tutto. Allora, quindi, andiamo in brodo di giuggiole, va bene? Allora, il brano lo propongo io, è un brano che ho scritto, fa parte dell'album Up to the Light, che ho pubblicato nel 2009, e è un lento che il cui video l'ho girato in 20 giorni, in 7 stati degli Stati Uniti, correndo come una pazza, autoriprendendomi, poi montando, girando sotto la pioggia, sotto il sole, nella Death Valley che c'erano 124 gradi Fahrenheit, che quasi 60 gradi nostri, e in condizioni incredibili. Però ragazzi, tornerei subito. Lo faresti subito. È una terra meravigliosa, piena di magia, piena di paesaggi. Sono andata a girare nel Far West, in tutto il West. Ho fatto Arizona, Wyoming, Utah, Montana, California, Nevada. E l'altro stato che ho fatto forse, non me lo ricordo più. Forse è più facile dire: cos'è che non hai fatto nella tua vita? Tante cose. Tante cose, e mi riprometto di farle. Certo. Allora, il brano si chiama What Else But Loving You. Cos'altro se non amarti? Susy dal gesso. All I wanna do is to love you, baby. Simple love you. Really love you. What else but loving you? Sometimes I feel I can't love no more. Sometimes I'd like to have an eternal love, so I'm divided. Yes, I'm divided inside. I gave you everything, I gave. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Certo che saperti così elettrizzante, elettrica, chiamavo, e sentirti in questa veste così romantica, dolce, soft. Perché non fai un disco solo di queste atmosfere? Guarda, i dischi si possono fare di tutte le atmosfere. Certo, però non è la tua. Allora, ecco, una cosa che devo dire di me come artista è che io non sono monotematica. Ho bisogno di esprimermi nei vari generi. Di variare. Sì. Assolutamente. Perché odio la monotonia in tutte le sue forme e poi le abitudini, no? E quindi c'è una cosa sola che faccio di abitudine. Mi sveglio che sono sempre felice, non ho mai le lune, mai. Mi prendo il caffè appena sveglia. Quella è l'unica abitudine che ho. Perché c'ho bisogno di buttare giù la brodaglia. Poi, avendo vissuto in America, la mia non è il caffè espresso, è una brodaglia, una serie di intrugli così. E quella è l'unica cosa che faccio d'abitudine. E poi lascio che sia il cuore, magari mi arriva un groove. Tante volte le faccio come faceva. Ho scoperto una cosa che abbiamo a fine, io e Michael Jackson, che inizialmente io facevo tutti i miei arrangiamenti con la bocca e poi li cominciavo a suonare con gli strumenti, perché dentro il mio cuore, dentro la mia testa, dentro il mio pensiero, sentivo... Erano così, dovevano essere così. E cominciavo a cercare di applicare, a fare le programmazioni per... E Michael faceva così, allora? Nell'ultimo disco si è scoperto che faceva come me. Ah, ma io lo facevo prima. Ho scoperto anche questa sintonia che avevamo, hai capito? Ho capito. ho capito. Però io ho letto nella tua biografia cose molto interessanti. Tra l'altro, hai il diploma di composizione all'università di Mogola, hai preso praticamente. Sì, sì, sì. Città della musica di Mogola. Sì, ho vinto nel 2000 un concorso come miglior compositore europeo. Tra l'altro, sapere, dimmi, che feci, non dico che feci la furba, perché non volevo fare la furba, avevo così tanta voglia di scrivere che il concorso era così: scrivere un brano di tot minuti e poi fate un cartone animato relativo a questo brano. Beh, io non mi iscrivo, e c'erano tre categorie: compositore, interprete, oppure l'altra categoria era autore della parte letteraria. Non dite mai paroliere, altrimenti Mogol si arrabbia. Autore della parte letteraria. E io partecipai con tre pezzi diversi e feci il cartoon di tre pezzi diversi. Praticamente disegnai a mano il cartone animato e scannerizzando in sequenza, feci un'animazione in flash. Ero creativa anche in quella sensi, cosa lì, chiaramente. E vinsi, pensate, due categorie su tre. 24 milioni di lire, perché all'epoca c'erano le lire, e vinsi due categorie con due brani diversi. Quando si accorsero che erano la stessa, che ero la stessa persona, dissero: "Op bacco, è sempre lei". ma noi possiamo darle solo un premio, lei deve scegliere. Io ho detto: "Beh, io canto da una vita, sono vocal coach, quindi che me frega fare un corso di canto, voglio migliorare come compositore". E quindi andai e stetti parecchio tempo lì da Mogol. E fu un'esperienza molto particolare, perché non so se sapete che per il segreto, cioè non ci sono tanti contatti con l'esterno, tu sei molto isolato e il posto è fantastico perché... Devi studiare praticamente. Devi studiare, la cosa bella è che hai il pianoforte in camera e quindi mi ricordo a suo tempo che il mio prof, che si chiama Giuseppe Barbera, che io lo chiamo l'orecchio assoluto, una persona fantastica, che lui ti mette sulla musica, poi si mette la lavagna e fa... la 4 sustain col diminuito, settima, nona, cioè scrive... Sì, non andare fuori, stai qua. Scrive l'alchimia, capito? E io lo guardavo così perché... Cioè, è troppo fantastico. È un Einstein della musica, sì, praticamente. Fantastico, no, guarda, veramente fantastico. E quindi lui ti fa... Cioè, avevi quel maestro là, quell'insegnante là. Quell'insegnante lì, poi ho avuto tanti altri, Marco Marone, poi ho avuto Gianni Bella, è stato mio professore, e poi Mogol stesso, Cheope, quello che scrive i testi per la Pausini. Sì. E anche Davide Poggiolini, che è quello che scrive per NEC. Sì. E quindi molti insegnanti, molte cose. È stata una bellissima esperienza e io scrivevo già prima. Comunque siamo ancora in contatto. Bene. E questo è importante, no? Sì. Mantieni sempre le amicizie. Mantengo sempre le amicizie, non sono amicizie interessate, ma sono amicizie di cuore. Certo. Bene. Perché le persone che lasciano la scia nel mio cuore, è difficile che io le lasci. Capisci? Ok. Senti, io mi voglio collegare. Vuoi che facciamo ascoltare una canzone e poi parliamo dopo? Facciamo ascoltare una canzone e parliamo dopo. Okay. Allora, ecco, a proposito che abbiamo parlato del CET. Sì. Questa canzone, CET è il Centro Europeo Toscolano, che sta ad Avigliano Umbro, vicino Terni. Che è un bellissimo posto. Sì, un posto fantastico. Per arrivare ti arriva il mal di macchina, perché c'è 80.000 curve, però insomma, ecco. Scrissi questo pezzo proprio al CET, in una delle mie composizioni, in una delle stanze di casa di Mogol, e però l'ho pubblicata soltanto l'anno scorso. Una cosa che avevi lasciato nel cassetto. Sì, mi capita a volte di scrivere, di arrangiare, di lasciare poi nel cassetto, magari lo riprendo, lo rivedo con un arrangiamento. La cosa buffa, sai come ho chiamato questo pezzo, che è in italiano, sì, così i nostri ospiti italiani sentiranno: Amarsi a morsi. Passano le ore e rimane. penso, baby. Chissà se tu lo fai mentre passano le ore. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, volevo chiederti una cosa. Tu hai detto che questo pezzo l'hai tirato fuori solo l'anno scorso, quindi è una cosa di un po' di tempo fa, lasciata nel cassetto. Però era un pezzo con una fisionomia musicale un po' diversa, un arrangiamento diverso. Sì, allora diciamo che per me arrangiare è come mettere un vestito a un soggetto. Se questo soggetto è un soggetto di melodia e d'amore, e io dovevo esprimere il concetto di amarsi e amorsi, no? Quindi voli pindarici, io vorrei, e quindi ho fatto tutto un arrangiamento di archi, French horns, eccetera eccetera, e come ti dicevo, mi piace scrivere cose diverse. Non è che perché ho fatto la rockettara o la house o resto vincolata a quella cosa lì. Cioè, un disco tu si chiamava Senza Etichette, una cosa simile, avevi citato. Sì, il mio album si chiama, il mio primo album da solista col mio vero nome, esatto. Che poi non è il mio primo album. Si chiama Place No Labels On Me. Per favore, non mettetemi etichette. E questa è l'immagine giusta musicale, esatto, tua. Esatto, sì, perché io non sono rock, non sono pop, non sono dance, non sono R&B, non sono gospel, non sono niente, non sono nessuno stile. Sono una che mette amore in quello che fa. Allora, se vuoi ascoltare qualsiasi cosa scriva in qualsiasi genere, bene, apri il tuo cuore e io arrivo. Ti tengo compagnia quando vuoi. Se non lo vuoi fare, non importa. Andrà in un altro cuore. Chi ha bisogno, apra la ventana, no? Sì. Non sei rockettara, perché adesso hai imbracciato una chitarra che non è elettrica, però può anche essere, per i nostri ascoltatori che stanno guardando, può essere anche elettrica. Ho imbracciato una chitarra che è una Silent della Yamaha, che è una chitarra classica amplificata. Amplificata, sì. Sì, mi trovo bene, perché pensati che questa chitarra è smontabile in due. Ah. Io me la porto in aereo quando devo fare i concerti. Perfetto. La smonto in due e monta con me nel mio sedile. Ah, ecco proprio. Ah, ok, questo non lo sapevo. È interessante. Mi ricordo una cosa, Susy, di molti anni fa. Sì. I Rox, quando andavano al Piper, 1967-68, aveva una chitarra Echo, costruita dalla Echo, volutamente per loro, a stella praticamente. A stella, era color argento. Brava, vedi che sai tutto. So tutto. È scelto, Pino, col suo italiano, inglese, inglese italiano. No, seguivo tutti i generi. Mi piace tutta la musica. Ti dicevo, a parte, e qui forse probabilmente devo imparare, e mi scuso con chi non condivide la mia visione, non sento molto l'heavy metal o le varie derivazioni, perché fondamentalmente sono un po' bellicosi come genere, ecco, sì. No? E però un giorno dissi a mio allievo che cantava così, gli dici, senti, mi fai un favore, ma mi fai capire cosa devo capire da questa cosa? Perché io vorrei amarla, insegnami. E lui rimase così, io devo insegnare a te? E io dissi, certo, scusami, io insegno a te, ma anch'io imparo da te, non ho capito. È questo insegnare, no? Certo. Tu mi fai capire la tua vibrazione, come sei, e io imparo a capire cosa piace a un altro essere. Da questo imparo, no? Penso... L'hai smontato sto ragazzo. Sì, io smonto sempre tutti. Smonto sempre tutti, vabbè, dai. Cioè, gli ho detto quello... Beh, mi sta insegnando, devo dire, ad amare lei. Bene, è positivo. Susi, tra le tante nazioni che hai citato prima, sì, non abbiamo citato la Svizzera. La Svizzera c'è la mia amica Orietta. Ma c'è anche una mia amica, dai, che ti sta ascoltando in questo momento. Buon amore! Quale che sarà seduta su quella sedia lì la settimana prossima. Oh. Si chiama Reidana. Ciao Reidana. O meglio Diana. Tra l'altro, per Blu Radio Veneto è un'esclusiva nazionale, perché siamo la prima radio italiana che ha chiamato, convocato, insomma, questa artista svizzera a venire a suonare, cantare. Che lei parla in inglese, però. No, parla italiano. Okay. Quindi la salutiamo. Ciao! Ma perché Diana o Ray Diana? Ray Diana è nome d'arte. Ah, no? E il nome vero? Diana. Diana. E sarà una cacciatrice, dai. Ci fai ascoltare... Ciao Diana, intanto. Ciao Diana! Ci fai ascoltare qualcosa adesso dal vivo, tuo, tutto tuo? Sì, allora, volevo farvi ascoltare Surf in My Life, che sarebbe una canzone che ho scritto stile anni 50. Beach Boys, non Beach Boys dipendente, ma no, un ma collegamento, un collegamento avevo anni 50. Voglia di fare una cosa diversa. Fine anni 50. E qui ti racconto una cosa buffa che fa parte sempre, quando andai a fare questi sette stati in ma l'America in ce l'hai nel giorni. Sangue, ma io c'ho anche tanti altri stati nel... Se ti dico che sono andata fino all'isola di Pasqua per fare un videoclip mio, però. Mi sono fatta 26 ore di aereo. Però una cosa fantastica. Ne è valsa la pena. Sì, è una terra piena d'amore. Pensati, ci sono 900 cavalli liberi. Ah, nel giorno di Pasqua. È una cosa fantastica, è bellissimo. E dicevo che questo video lo girai in parte all'isola di Pasqua e in parte nelle spiagge della California. La cosa buffa è che dissi, senta, ma per vedere i surfisti e riprenderli, chiedevo, it depends on wind, no, dipende dal vento, sì, ma a che ora domani mattina? Lei deve venire alle 3 o alle 4, quindi io mi alzavo a degli orari allucinanti, alle 3 andavo in spiaggia a riprendere sta gente e poi ho fatto le riprese alle 4, alle 5 del mattino, ora statunitense, e poi ho montato questo video che ho fatto a Cartoon. E la cosa bella è che grazie a Photoshop mi sono fatta crescere un sacco di cellulite ovunque. E sì, perché è la storia di una cicciona che si innamora del surfista. Ah, ok, questa è la storia. E quindi dovevo animare con tutta questa ciccia che andava da tutte le parti. E mi sono troppo divertito. Surfing My Life, cosa dici? La facciamo? La facciamo. Come no? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ma vai tu. Devi andare tu. Sono già andato io. Non sento io. Non senti? Siamo a posto, puoi suonare. Vai, vai. No, io non sento che devi andare tu. Ho già fatto, Susi. No, no, no, tu devi mettere su... E l'ho già fatto, ti ho detto. No. Sì. No, devi mettere su che suono sopra quella base là. Allora, adesso ti faccio sentire una canzone che ho scritto, eh. Scherzo. Sì, questa, sì. Alza bene. One day I surf in California, then lives together if you want me. Polly. Avevamo in progetto noi di allargare la stanza per fare la pista da ballo, vero? Sì, ma vedi, il discorso di questo pezzo è la Susi ha ironizzato sugli anni 50. Sì, esatto. E ha ironizzato divertendosi praticamente. Sì, così, Susi? Assolutamente. Io devo fare ogni cosa con amore, divertendomi, certo. Se no non ha senso. E poi hai fatto anche l'effetto... Senti, lo te lo rifaccio. Perfetto. Una volta si faceva... Io credo che... Dai che da domani mi assumono come rumorista nella cinematografia. Io credo che chi ti sta vedendo con le web che dice... Ma non sta fermo un momento. Questa è pazza. No, perché... È creativa, è quella diversa. Creativa, è creativa. Discorso di wah-wah, sì. Lo facevano anche altri con la chitarra. Però, questa cosa. Con la chitarra, esatto. Sì, io non lo potevo fare. Ho detto, senti, cosa faccio? Mettiamo una solo vocale. Che non è male mettere una solo vocale. Dai. Quindi sì. La California riveduta e corretta da te, cioè questo spirito sì. Californiano, il sole, l'oceano, e via, ti ha dato l'idea di fare questo pezzo sì, ironico, sì, divertente, sì. Da muoversi. Da... Sì, no, a dirti la verità, questa cosa è nata in Italia, come idea. Mm. E poi io sono andata negli Stati Uniti e ho detto, vado a girare, faccio così. Bene. Perché ogni idea creativa poi ho tutto il suo background, la quindi, costruzione. L'idea parte dall'Italia praticamente. Non sempre. Non ad sempre. Esempio, in Place No Labels on Me, l'album del 2008, io due brani li ho scritti in Medio Oriente. Ah. E uno addirittura l'ho scritto in Egitto. E tanto è vero che non riuscivo a finire l'album, no? E un giorno chiesi a una mia amica che ha l'agenzia e le dissi, senti, imbucami in un posto dove non mi conosce nessuno, che se non mi fermano, che non mi chiedono autografi, che nessuno mi dice, ah, quella che ha fatto, ah, quella che... Mi chiudo dentro una stanza che guardo il mare e fammi scrivere che devo finire l'album. Era diventato un'ossessione. Ho capito. E lì sono nati due brani contenuti in Place No Labels on Me, e uno è A Man Like You e l'altro è proprio in stile arabo, Arabian Dance, perché sono stata molto influenzata dalle melodie che sentivo in quelle zone, e si chiama Under Your Spell, sotto il tuo incantesimo. Bene, non abbiamo parlato, sì abbiamo parlato di Michael, ma io voglio sapere del tuo lungo periodo americano, il periodo americano che hai fatto. Il periodo americano, ho fatto anche un periodo inglese prima. Bene, questo non lo sapevo. Parliamo di quello americano, dopo parleremo di quello inglese. Non ho fatto un periodo inglese prima e ero molto magra e ballavo nei musical e ho fatto una parte in Cats. Un tuo grande amore il musical. Il musical è sempre stato mio amore, come gospel, come tantissimi altri generi, e che ancora lo sono. E venendo dalla pronuncia londinese, quando poi mi trasferii di là per studiare, la prima lezione dissero: allora, tu sai che in inglese si dice book, sì, no? Ok. E in America c'è questa pronuncia che è diversa, book. E io dissi: oddio, Bach, Johann Sebastian Bach, alla prima no, non ho studiato, non sono pronta. E subito le crisi, no? Hai capito? Per dirti che ti dovevi adattare. Poi ci sono più di 100 pronunce negli Stati Uniti. Però. Infatti, per esempio, Anastasia, l'artista internazionale, da noi è tanto amata, mentre negli Stati Uniti assolutamente no, perché ha una pronuncia che non è American Diction. Mm. Ho capito. E quindi è anche un po' difficile sistemarsi. Niente, ho fatto scuole di coreografie, sì, di musicali. E poi c'è l'insegnante che ha studiato con Maria Carey, sì, e con Whitney Houston. Sì, che non c'è più adesso perché non c'è è morta. Più, e però era brava, poi, ti ha insegnato. Sì, sì, sì, sì, mi ha insegnato molto. E poi ho studiato anche con i vari coreografi, che poi ho ritrovato qui in Italia, perché c'era questo gemellaggio Italia-Stati Uniti, per cui ho avuto la possibilità di studiare con loro più di 9 anni. Però. Perché 6 anni lì e 3 anni in Italia, in Italia. Quindi, ho completato un po' tutto. E beh, mi piace molto girare. Io amo il mondo, amo il pianeta Terra, amo i suoi abitanti. E mi piace conoscere di tutte le culture e imparare, e mi accorgo che sono sempre molto ignorante, perché girando, a parte che ti allarga molto il cuore, no? Tu quando viaggi, no? Conosci gente di tante personalità, di tanti luoghi, di tanti posti, ed evolvi, no? Cioè fai un'evoluzione spirituale, perché comunque è un regalo, è un dono che hai all'interno. Però quando torni qui e gli altri sono rimasti fermi, tu fai oh. C'è un attimo per tornare nel Matrix originario, no? Quindi, però dai, è una cosa fantastica questa possibilità, che spero di riprendere presto a viaggiare, perché ne sento il bisogno, perché scrivi molto di più dopo. Percepisci le sonorità di diversi sì, paesi sì, sì, sì. E poi le costruisci e poi le puoi mescolare, le perché ad esempio questo, sì, questo se tu ci pensi sarebbe stato uno ska. Sì, ok. Sì, sono d'accordo. Se con ci te. Pensi, sì, sarebbe sì, stato uno ska. Esatto. Io invece ho deciso di fare un surfing mescolato con lo ska, mettendo delle sonorità moderne. Quindi ho mescolato come arrangiatore le varie influenze dei vari posti. Certo. Per cercare di dare un ritmo diverso. Una cosa che devo chiedere, poi do la parola ad Agostino, ma come li crei i pezzi? Mentalmente, come nasce un pezzo tuo? Allora, con quale spunto? Non so, sei stato in Egitto, hai detto che la cultura araba ti ha dato sì, lo spunto di fare un sì, pezzo. Sì, allora la cultura araba, per esempio quel brano lì, intanto non c'è un modo preciso, però avendo fatto scuola di composizione ti insegnano che tu devi, che prima deve nascere la melodia e dopo adatti le parole. Ho capito. Non sono le parole che vengono, cioè non è la melodia che viene adattata alle parole, ma al contrario. Nel mio caso io sono molto più fortunata di altri soggetti, perché scrivendo pure le parole e sono l'unico artista al mondo che scrive in 4 lingue, sì, perché io scrivo in francese, in inglese, in italiano, in spagnolo, e alle volte le metto anche all'interno di uno stesso album. Infatti il mio ultimo album si chiama 4 Languages for a Soul Love, 4 lingue per un solo amore, cioè la musica. E essendo fortunata che posso esprimere i concetti come paroliere, a me alle volte musica e parole nascono insieme. Ho capito. Perché la gente deve capire, deve insieme, sapere come per, si fa. Per me alle volte nascono insieme, però sarebbe più... Se, diciamo, la persona che scrive non è la stessa che scrive la parte melodica o musicale, e le figure non coincidono, è corretto fare prima la musica e poi e la linea melodica, e poi adattare le parole alla linea melodica. Benissimo, come facevamo con il combattimento. Esattamente, esattamente. Io volevo, per forza di cose, visto che mi hai, quella domenica, mi hai tenuto quasi un'ora al telefono. Sì, sì, allora io rompo le scatole alle persone di domenica di solito, oppure quando sono in bagno, sembra che c'ho il lanternino, ah sai, stavo facendo la doccia, ah, scusa. Allora, io ho fatto una battuta, ma la cosa è estremamente seria. Dimmi, se me la dimmi, permetto. Dimmi, tesoro. Tu stai organizzando e mi fai partecipe anche io, anche a me e anche la stessa nostra emittente Blu Radio Veneto, di un bellissimo concorso per artisti, che insomma lo spieghi tu. Sì, I'm organizing a new festival. Che lingua lo devo dire? Come vuoi tu, in italiano. No, in italiano, va bene. Allora, sì, insieme a Flora Grassivaro della Federazione Italiana delle Donne per la Pace nel Mondo, sto organizzando come Susy del Gesso Enterprise, quindi organizzatrice di eventi e discografica, sto organizzando un concorso gemellato con New York. Il nostro concorso musicale è il primo concorso per compositori anche italiani. No? Perché si svolge così. Ci sono tre categorie. La prima categoria, che è la categoria dei brani inediti, i brani inediti devono essere rigorosamente di 4 minuti in lingua italiana, dialetto oppure linguaggio italo-americano. La gente mi dirà: cos'è il linguaggio italo-americano? Allora, gli italiani che si sono instaurati negli Stati Uniti da moltissimi anni hanno creato una loro lingua. Per esempio, all'automobile, the car, u carro. Ah, un carro. Ho capito. Okay? E, per esempio, il lavoro, no, mi raccontavano gli organizzatori, e il lavoro si dice the job, no? Allora, italianizzata diventa la jobba. Okay? Ok? Allora, può essere la creazione di questo nuovo linguaggio, che comunque come forma dialettale o come lingua creativa, perché non mantenerla? Viene data spazio anche al dialetto, quindi, certo, a qualsiasi forma dialettale italiana in questo concorso, e alla lingua italiana. Il vincitore di questa categoria vola a New York, canta al Festival di New York e viene ripreso da Rai International. Ho fatto anche la categoria editi. Cosa si intende per editi? Editi sono le covers, quindi i brani di altri, oppure brani personali già usciti in pubblicazione discografica. Quindi editi. Sempre possono essere di tutte le lingue, quindi qui non c'è la limitazione. Chi vince questa categoria vince un premio di un vocal coaching con me per il valore di 800 euro. E finalmente la sezione dei compositori, che sono orgogliosa di questo perché, ecco, una cosa che mi preme dire, Giulio Rapetti in arte Mogol mi ha sempre detto, come ha detto a me, ha sempre detto anche a tutti gli altri: il genio non esiste, nasce da una costante applicazione. Quindi tu non puoi pensare a 20 anni di saper scrivere dei pezzi spaziali, perché c'hai ancora un sacco da sapere. E io gli do conferma, perché io scrivo da quando avevo 7 anni e ancora sto imparando. E la cosa interessante è che purtroppo sia in Italia che negli altri paesi ormai, quando tu hai 24-25 anni sei già da buttare nelle immondizie. E questa cosa mi dà un fastidio immenso, perché in realtà invece un artista ha una sua maturazione e scrive delle cose che toccano il cuore proprio per quello che ha, proprio per il vissuto, anche per la sofferenza artistica del non essere compreso, del non essere capito, eccetera, eccetera, no? E quindi che cosa succede? Non si può a 20 anni scrivere il pezzo mondiale. Se ti succede un colpo de cu, se può di, sì, colpo de cu, se può di, se può di, se può di un colpo de cu. E quindi la cosa bella di questo festival è: non c'è età. Se mi arriva uno di 100 anni che mi scrive un pezzo favoloso, c'è la giuria, vota, vince anche quello di 100 anni. Perché non gli devo dare l'opportunità? Ma anche al bambino di 6 anni, che canta benissimo, perché i festival nostri italiani prendono dai 15, 14, 15 in su, no? Se uno prima è ancora bravo, adesso non dico che scriva i brani, però si possa mettere negli editi, diamo la possibilità a tutti. Quindi i compositori di questo festival può avere sia le parole della canzone, sia può presentarsi con una canzone senza parole. Vince un soggiorno presso un hotel 5 stelle di Abano Terme, che è il Panoramic Plaza, e la possibilità di essere abbinato con la sua canzone nella prima categoria, dove l'interprete volerà a New York. Ecco, abbiamo come aiuto Blue Radio sì, Veneto. Io lo faccio pubblicamente, sono onorato veramente di far parte della giuria quel giorno della Filanissima, il 21 di agosto. 21 di agosto ad Abano Terme. La Susi ha voluto anche me. Io sì, perché tu sei esperto di tanti generi, di tante cose, hai sentito di tutto, quindi siccome io penso che si scrivano, non c'è limitazione di genere, hai capito? Quindi se si scrive uno della lirica, mi si scrive heavy metal, mi si può scrivere musica classica, mi si può scrivere chiunque, serve una persona aperta a 360 gradi che abbia l'esperienza di fruire a livello molecolare della musica da sempre. Non può uno che non ha fatto giudicare. Certo. Comunque grazie Susi. Col perché cuore. No, grazie a voi perché poi i nostri 21, giusto? I nostri 21 finalisti verranno intervistati da voi, no? Certo. Poi nei palinsesti dei vostri programmi radiofonici. Sì, certo. A turno vedremo di fare con il mio fedele scudiero. Povero Mauri, che brutto compito. No, dai, conterai delle persone perché veramente... ecco, io ci sono solo nella pregiuria, non ci sono nella giuria finale. Perché non ci tenevo a verificare. Facciamo i nomi dei giurati. Sì, il professor Fussi, che è il foniatra delle cantanti italiane, esatto, e anche europee. Che poi c'è Agostino Spolaore, poi c'è Sandalo Giordano, che è un compositore, che è il proprietario del Sincro Studio. Dove andremo, ecco, una cosa interessante, se posso fare un attimino una piccola. Non voglio mandare i pezzi a casa di ogni giurato. Desidero che ci riuniamo e tutti si ascolti dalla stessa fonte sonora. Perché è così che si è corretti. Io voglio essere con me, tante volte non sono stati corretti. Io non voglio fare questo a un altro essere, chiunque sia. E quindi ci tengo moltissimo a far sì che sia tutto nella legislazione, nella correttezza. Abbiamo avvocato, abbiamo notaio, abbiamo controlli di tutti i tipi. Ecco, c'è già qualcuno che ha cominciato a mandare alla mia mail personale cose. Ragazzi, io cancello tutto. Mandate all'indirizzo quando vi scrivete con le modalità, perché siamo svizzeri, purtroppo. Si deve essere, perché un concorso serio lo deve essere. Ascolteremo tutti dal Sincro Studio, tutti insieme. Allora ci sarà nella pregiuria anche Glenn White, mitico Glenn. Jacopo Jacopetti, sassofonista di tutte le più grandi. Eva Simontacchi, la nostra amica... Che è già venuta qui anche. Che è venuta qui a intervistata. Cantare. Ho dimenticato qualcuno? Sì. Ah sì, scusami. Saverio Girotto che è poi anche è stato un vostro collega radiofonico ed è anche speaker della Nazionale Rugby e quindi segue tantissime cose nello spettacolo e nella televisione. Certo. Adesso ci ascoltiamo il cambiamento del 2010. Ah sì, ecco, vorrei dire una cosa relativa a questo pezzo. Penso che molti di voi abbiano sentito dire del cambio del 2012, no? Perché succederà così, perché succederà colà. Allora io, siccome non so cosa va a succedere, come tutti gli altri, nel 2010 mi sono chiesta, ma senti, ma perché devo aspettare il 2012 per cambiare? Io voglio cambiare adesso. E con questa canzone volevo esortare le persone a cambiare la loro forma di pensiero, la loro forma del cuore, i loro messaggi, i modi di pensare. E il cambiamento è qui ora, era qui ora nel 2010 quando l'ho scritto. Non serve aspettare il 2012, il cambiamento deve partire dall'interno di ognuno di noi. Allora se vuoi, cambia e rendi il mondo migliore. Change 2010. Baby, baby, baby. Change 2010. I'm Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Hai una persona che ti sta ascoltando e ti saluta caramente, dice che sei sempre grande e si chiama Luna Love. Oh, ciao, dolcissima. Tra l'altro una vostra collega speaker di un'altra radio. Ah, ecco, bene, abbiamo un'altra radio. Ciao Luna anche da parte ciao, nostra. Ciao Luna, un bacio da tutti, grazie. Agostino, non serve che i sacchetti... Mi fa impazzire sto stacchetto. Mi fa... Lo può fare direttamente da Susi lo stacchetto. Ah, perché? Lo fa direttamente da stacchetto. La Susi. Ecco, vedi, è suo. Lo svegliamo il segreto allora. Ma perché avete detto questa cosa? Io volevo rimanere nell'anonimato. Sì, ebbene sì, sono anche una gingolara. Sì, tra le tante cose hai fatto anche quella. Insomma. No, è bellissimo, è un mestiere creativo, perché pensati che in 30 secondi e a volte anche in 5 secondi devi condensare tutto il secret di una radio o il messaggio e devi arrivare al cuore. Quindi va studiato mentalmente, ma deve essere elaborato con il cuore, altrimenti il risultato non è. E non è semplice, schifezza. È difficile in pochissimi secondi. Esatto. Dare l'impronta proprio della radio. Esattamente. Allora, cosa ci proponi adesso? Ci fai qualcosa dal vivo? Sì, faccio qualcosa dal vivo e volevo suonarti una canzone tratta dal mio primo album, che è poi una canzone che ho messo come special conclusivo, il mio brano numero 17. E si chiama Under the Stars. E in questa canzone, ecco, una passione che ho, come penso che abbiano moltissimi radioascoltatori, quella, non so se alle volte vi sentite un puntino infinitesimamente piccolo dell'universo, allora alzo la testa al cielo e vedo, quando non c'è l'inquinamento luminoso, chiusa parentesi, vedo queste stelle fantastiche e io sogno, desidero e dico da che pianeta vengo, da dove arrivo, la mia sensibilità così diversa. E dico che creato meraviglioso, che cose stupende, e così nascono le canzoni. Questa canzone dice: io sono, tu sei, egli è, noi siamo tutti figli delle stelle. E cerchiamo di fare che la nostra vita sia l'armonia tra i pianeti. Giove gioca con Marte e racconta questa storia. E alla fine dice: io ti seguirò dietro le stelle, seguendo te, seguendo me. Under the Stars. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Stars are in the flow. Blind young disconcerting the spiral Non so se gli ascoltatori hanno visto, però premeva sui tasti del pianoforte, proprio quasi spaccarli. Ma sai perché? Dimmi. Perché sono abituata a suonare il pianoforte. E il pianoforte questa è la tastiera. Questa è una tastiera, mi deve essere più morbidi. Però devo essere insieme allo strumento. Esatto. La grinta. E poi, e poi c'era una cosa che ho notato: c'era una fase, un suono percussivo continuato nel pezzo. Ho messo naturalmente questo nel disco non è così. È chiaro, sono questo è un effetto qua. Ci sono tutti stasera. I cori, tutte le cose, è fatto completamente diverso. E la cosa interessante è che mi sono messa una cosa come se fosse: attenzione, entriamo in una fase di preghiera. Per me era una preghiera per l'universo, per gli amici e i popoli di tutte le stelle, perché secondo me, sai, attraverso le onde ci sentono dappertutto. Certo, chi l'ha mai detto, scusami? Assolutamente. Senti, hai mai chiesto a Michael Schumacher di farti fare un giretto? No. Io so che tu canti per lui. Io ho cantato per lui per ben 3 anni ai circuiti di Zeltweg in Austria, e devo dirti che aveva detto anche che mi mandava l'invito a casa per andare a vederlo, solo che io non parto da sola. Ma go io, non ti preoccupare. Per andare lì e poi mi dicono sempre: Susi, sai, devi metterti le cuffie perché c'è un rumore incredibile. Io penso sempre: Dio, devo mettere l'udito perché deve essere perfetto poi per suonare. Certo. Allora sono stata un po' non carina a non andare, però Shumi, verrò, scusa. Ma come mai è arrivato a te Schumacher? Ma tramite un DJ che lavorava lì, che è molto molto molto famoso, ha detto: senti, io voglio quest'artista e vorrei fare una festa con una persona che... Guarda, c'ho io la persona e siccome tra l'altro io lavoro come vocalist sopra qualsiasi tipo di disco... Quindi non c'hai nessun problema? Non ho nessun problema, improvviso, parlando così tante lingue, posso cantare in tante lingue. E la cosa buffa è che mi fanno sempre vestire da mami gospel, no? Con queste tutte, cioè argento, oro, così, che sembro... Bello, bello, molto bello lavorare in Austria. Hanno grande rispetto per lo spettacolo. Ma in ogni caso, gospel, tu c'hai la voce però sempre impostata in quella maniera, secondo me. No, io... Cioè, io non gospel, andare... nera. Beh, nera sì. Nera, assolutamente nera. Anche qua era molto nera, secondo me. Io l'ho sentito così. Allora, una volta un giornalista scrisse di me in un giornale che mi avevano sbagliato il colore della pelle. Ah, vedi. Perché quando uno mi sente, per esempio, cantare Aretha Franklin, pensa che sono lei, ma non cantando come lei, cantando col groove che ha lei, però interpretando la mia maniera. 30 perché... secondi di Aretha Franklin. Think about what you're trying to do to me, yeah, think about it and let yourself be free. Let's go, man, let's go, man, let's go, well, we're a queen. And you don't even know now you can, now you're supposed to be my boyfriend. I'm in the psychiatrist in the doctor with the grills. He don't take too much IQ, see what you do to me, you better think. Think about what you're trying to do to me, oh, freedom. Hey. E dopo bravissima, è stata bravissima. Mostro sacro, caro. Bravissima. Quindi cioè, per dirti la grinta, sì. Il groove, se c'è bisogno di groove nero, si dà groove nero. Se c'è bisogno di white groove, si dà white groove. Tipo? Se c'è bisogno di jazz groove, si dà jazz quello. Groove. Mm. E perché interprete è questo, non può essere standard. Ogni canzone ha la sua emozionalità, allora tu ti devi connettere con quel tipo di emozionalità e devi essere te stesso, perché non devi copiare un altro artista. No, devi essere te stesso nell'espressione di quella cosa lì. Che bello. Che bello. Ha fatto una descrizione di come si fa l'interprete. E anche, però, il bello è che tu sei interprete, sì, però ma sei anche autrice, e quello è importante. Io sono interprete e sono autrice e ho bisogno, e lo dico proprio puntando questa parola, di scrivere per esprimermi. Ecco. E ho ancora tanto ancora da dire. Bene, intanto questa è una cosa positiva. Intanto lo dici in questa canzone. Sì, cosa mettiamo, I'll Be There? Sì. Allora, questa canzone è nata, I'll Be There For You, è nata da un accordo di pianoforte. E poi mi sono sentita trasportare in un mondo magico e l'ho trasformato alla fine in un gospel. E sono andata a girare il video a San Francisco. Che è una città magica, in ogni caso. Che è una città magica. E mentre facevo le riprese sul Golden Gate, non so se tu sai, il Golden Gate, quando passano le macchine vibra tutto. E c'era la mia telecamera che faceva così. E dicevo, ma io sono sulla terraferma, ma il ponte seguiva le vibrazioni delle auto, quindi anche la mia telecamera faceva così. E pensate, è nata in 4 ore e ho finito l'arrangiamento in 4 ore. I'll be there for you, sarò lì per te. Into your eyes, I see that there's a light, and all I wanna know, oh, really, where do you wanna go? But all I wanna say. Every night, I'll be by your side. I'll be there. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua. Una coda un po' particolare a questo pezzo. È stata una coda un po' non romantica, un po' spaziale, posso dire questo? Sì, doveva esplodere il cuore, no? Ecco. Delle persone, quindi attraverso un coro gospel uno diceva ok, ci sono, vado, e dopo ognuno prova quello che vuole provare. Perché ha libero arbitrio di sentire come vuole sentire alla sua maniera. Perché le canzoni vanno comunque sentite con il cuore e il cuore di ognuno è diverso. E nascono sempre con questa predisposizione, tutte quelle che scrivi? Nascono sempre col cuore. Qualcuna, a dirti la verità, l'ho pensata a livello commerciale. Per esempio questa sera non ho portato il baile del pato, il ballo del papero, che è un ballo che ho fatto così, proprio a livello di commercialità. Infatti stasera non l'ho portato ed è un ballo che ho creato vestita da papero con tutte le movenze. Beh, insomma, quello è stato pensato. Certo. Però è una cosa commerciale. Sì, sì. Per il resto cerco sempre che sia il cuore ad esprimersi e poi a sviluppare poi il pezzo. Esatto. Susi, tu trasmetti emozioni parlando e cantando. Un salutone a te e a tutta la radio. Ciao Sandrino. Grazie Sandrino, grazie. E poi c'hai anche un tuo parente, penso, Rudy. No. Non è un mio parente, è il proprietario della web TV di Biella. Rudy! E ciao Sandrino. Allora, Susi, mancano 10 minuti, ci resta a parte lo spazio per la canzone, però adesso dobbiamo parlare di cose serie, cioè dove si può trovare le tue cose, i tuoi dischi, le tue immagini, allora, i tuoi contatti, sì, allora, il tuo sito, eccetera, eccetera. I miei dischi li si possono trovare, Place No Labels On Me, fisicamente, è un album devoluto in beneficenza a favore dei bambini, ed infatti non ho detto prima una cosa del concorso. Il concorso è abbinato anche a questo mio album, e gli acquisti di questo mio album vanno in beneficenza, e se guadagniamo qualcosa da questo concorso va in beneficenza alla scuola Lamatashi dei bambini nepalesi e cambogiani e anche del Pakistan, mi sembra. I miei brani si possono trovare prima di tutto nei primi motori del web mondiale, cioè iTunes, Amazon MP3, Yahoo, Napster, Medianet, sai che non mi ricordo, Rhapsody, cioè ce n'ho talmente tanti, e poi al mio sito www.susidalgessoenterprise.com potete trovare tutti i testi, potete scrivermi per avere gli accordi, perché io volutamente non pubblico gli accordi, ma li do su richiesta, e i video li potete trovare al mio canale di YouTube, scrivetemi su Facebook, scrivete dove volete, rispondo sempre a tutti. Non ho la chat aperta perché divento matta, mi scrivono in troppi in contemporanea, mi viene l'ansia da prestazione e chiudo tutto, quindi evitate di scrivermi. C'è un video che ho visto su YouTube con la tua partecipazione al Teatro Verdi a Padova. Sì, suonavo live il mio pezzo che ti ho suonato prima. Sì, che hai presentato con Surfing My Life. Sì, ma chi è che ti ha presentato? Ti ricordi il nome? Il presentatore? Sai che non me lo ricordo. Toto Cotugno. Ah, no. Beh, ma no, scusami, perché sono andata diverse volte Teatro Verdi. E Toto Cotugno, sì, risale al 90. Sì. E lui disse sempre, mamma mia, che voce che hai, ma senti un po'. E io mi aspettavo sempre la solita domanda: com'è che non sfondi? Ero già pronta a dire, per il momento sfondo la sedia se continuo a mangiare così. Però adesso però diamo un'altra immagine di Susi dal gesso. Sì. Nessuno lo sa, o forse pochissimi lo sanno, che a 5 anni tu hai vinto lo Zecchino d'Oro. Sì. Non lo sapevo. Sì, ho vinto la riedizione di Bologna nel 1971, così adesso la gente sa anche quanti anni cos'è ho. Cosa fai conti. Cosa cantavi? Per un bicchiere di vino io vedevo tutto rosso 24-48. Mi tremavano le gambe e mi sono dimenticata le parole. Sono passati troppi anni. Eri una predestinata, insomma. Sì, sì, ma io ricordo che rompevo le scatole già ai vicini allora. E siccome voi non ci crederete, mi vergognavo un sacco di cantare. E però siccome sapevo di avere una voce molto potente, no? Cosa facevo? Scricciolino come ero, prendevo il letto, lo disfavo tutto e mettevo in piedi il materasso contro la finestra perché attutisse il rumore. Si vede che già capivo di insonorizzazione, probabilmente, sì, esatto, non esatto. lo so. Sì, sì, ed è già avanti con i tempi praticamente. Prossimi concerti, Susi? Prossimi concerti? Allora, ho qualcosa all'estero, io sai quelli dell'estero non le dico mai perché non mi piace dire dove vado, lo sanno solo nei paesi dove vado e basta, non annuncio. E ne ho uno sabato allo Stardust qui a Albignasego, esatto, e avrò degli ospiti che canteranno insieme a me e canterà insieme a me anche una delle mie piccole che ho addestrato a scuola. E speriamo bene perché ha passato tutti i provini di Io Canto e adesso è alle fasi finali e spero che passi per lei perché è bravissima. Che bella soddisfazione per te. Sì, anche. Ma io sono contenta per lei. Certo. E poi sai, l'allievo se si impegna supera sempre il maestro, quindi il maestro non può altro che essere orgoglioso di questo. Certo. Poi se mi batte una di 8 anni meglio ancora. Meglio ancora. Va bene, noi ci salutiamo, io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo appunto con Reidana, sempre qui, ospite a Blu Radio Veneto con la sua musica, sempre con Maurizio Calzavara. Tu quando ci sei? Ci sono martedì, ci sono mercoledì. E tu sei sempre qua. Sì, gli appuntamenti non me li ricordo, ma cliccate sul nostro sito, c'è scritto tutto quanto. Il nostro direttore artistico che sta preparando, lo salutiamo e anzi, predispone adesso, da tutto. Adesso andrà in trasmissione subito dopo di noi con la sua classifica, la sua musica rock, Alberto Prisco, fino alle 24, quindi non cambiate canale, come si suol dire. In questo caso ascoltate sempre la vostra emittente preferita, cioè Blu Radio Veneto. Susi, noi ti ringraziamo di aver aderito. Io ringrazio voi, ringrazio tutti gli ascoltatori anche del web. Certo. Tutto il mondo. Anzi, posso fare un saluto in certo. 5 lingue. Vai, vai. Thank you, gracias, merci, how are you? Questo è Navajo. Però. Maururu nella lingua del Rapa Nui dell'isola di Pasqua, perché abbiamo degli amici che ci guardano anche da lì, lo sai? Non lo sapevo, momento, bellissimo questo. In questo momento. E grazie veramente a tutti, grazie a voi di avermi dato questa opportunità di poter aprire il mio cuore al vostro cuore. E spero che il semino dell'amore sia arrivato da qualche parte. Ti saluto anche Amélie. Grazie Amélie, ciao, un bacione. È venuta qui la settimana scorsa. Allora, grazie ancora, ci fai ascoltare l'ultima canzone che è un pezzo da brividi, senz'altro. Allora, guarda, io potrei fare un pezzo mio, però siccome ricordo che qualche mese fa, cos'era, maggio? Sì. A maggio, c'era seduto qui con una tastiera il nostro amico in comune, Cecil Rogers. Vero. Sì, certo. Ok, è vero. E lui fece The Greatest Love of All. È vero. E io gli scrissi, guarda, in Facebook, gli ho scritto oggi, gli ho detto, guarda, se mi danno la possibilità, ti faccio una canzone per te, con tutti i ragazzi ti salutiamo dall'Italia. Hi Cici, we are all united here in Blu Radio Veneto. Susi De Gesso singing for you the greatest love of all. Ciao. If I feel, if I succeed. take away my dignity. Because the greatest is happening to me. I found the greatest love all inside. Just need